sei tutto quello che non mi aspettavo, sei quella che aspettavo io da tempo. Riempi la distanza da chi non sarò mai, tra le disfatte e tutti i miei vorrei. E spero solo che non finirà. Sei la destinazione che mi corre incontro. Chissà, chissà, se noi casomai ci riconosceremo anche più in là. Chissà, chissà, come sarà. Trovarsi non è mai per caso, e per questo amore non ti farò andar via. Ripenso a quando ero rimasto solo, per un motivo che io non ho mai capito. Sentivo di essere inciampato nel destino. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Ad occhi chiusi andiamo verso il mondo, vivendoci la gioia del momento. Chissà, chissà, se noi casomai ci riconosceremo anche più in là. Chissà, chissà, come sarà. Trovarsi non è mai per caso, per questo amore non ti farò andar via. Io credo che il segreto è respirare mentre tutto va come deve andare. Troppe parole non servono a niente, ma un'esplosione nel cuore cura la mente. Perché un abbraccio è come guardarsi dentro, perché pelle su pelle io mi perdo. E andare via da noi vuol dire strapparsi, guardare i nostri pezzi sparsi tra i passi. Chissà, chissà, se noi casomai ci riconosceremo anche più in là. Chissà, chissà, come sarà. Trovarsi non è mai per caso, per questo amore non ti farò andar via. E adesso amore non ti farò andar via.